Mix 24 di Giovanni Minoli. Ziggy is. What you got? Small money, but and I'll be better off without you. In no time, I'll be forgetting all about you. Saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around. Buongiorno, bentornato su Mix 24. Buongiorno, Andrea Orlando, ministro di giustizia. Buongiorno. Senta, dopo l'attentato di Londra, Theresa May, la premier inglese, ha detto: quando è troppo, e si prepara a combattere il terrorismo con tutti i mezzi, legge e forze speciali. E c'è un salto di qualità nella lotta al terrorismo? Ma ci deve essere, però io piuttosto che grandi proclami lavorerei molto su un tema che su cui secondo me non si è lavorato abbastanza, che è quello della cooperazione internazionale, su cui molti paesi, tra cui anche la Gran Bretagna, hanno spesso opposto grandi resistenze. Scambiarsi informazioni è il modo migliore. È il modo migliore. Senta, lei è ministro di giustizia, ma pensa che gli strumenti che abbiamo ora sono sufficienti se inseriti in questa collaborazione di cui parla lei? L'Italia ha sicuramente una normativa all'avanguardia, non c'è una normativa che metta al riparo da rischi naturale in modo totale. Quello che possiamo dire è che se noi chiediamo informazioni non sempre ce le danno, quando vengono chieste a noi, noi siamo sempre disponibili a farlo, perché abbiamo puntato tutto sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni. Senta. Se poi mi chiede se le strutture sovranazionali sono sufficienti, e questo è un terrorismo ormai sovranazionale, le rispondo di no. No. Per questo, per esempio, siamo stati molto critici sulla timidezza con la quale si sta lavorando alla costruzione di una procura europea. Infatti, che ancora non vede la luce. Ecco, ministro Orlando, comunque, a parte quello che è capitato a Torino, che noi siamo gli unici che sono riusciti a farsi praticamente un finto attentato da soli, noi per ora siamo stati immuni da attentati. È fortuna oppure anche una bravura degli apparati? Ma credo che ci siano entrambi le cose. C'è una capacità sicuramente sviluppata nel tempo degli apparati, perché purtroppo sono stati un paese colpito a suo tempo dal terrorismo, dalla mafia, che hanno sviluppato fenomeni di coordinamento e di cooperazione, come le dicevo. Però naturalmente c'è anche l'elemento della fortuna. Senta, adesso come in Inghilterra, anche in Italia si vota. Lei ha timore dal punto di vista della sicurezza, naturalmente parlo? Ma guardi, io penso che ormai qualunque evento di rilevanza generale susciti in qualche modo un rischio, quindi se non sono le elezioni è un'altra, abbiamo visto piuttosto un concerto, una partita, una partita di calcio, quindi non si può vivere con questa, con quest'incubo, non si può rinunciare alla nostra vita e alla dinamica democratica perché c'è questa possibilità. Senta, ministro Orlando, la direzione del PD, per venire alle cose di casa vostra, eletta la settimana scorsa, è un bunker renziano oppure un luogo di rappresentanza per tutti? Lo vedremo, naturalmente all'interno si sono rappresentate le diverse posizioni che si sono confrontate nel congresso. Il problema è se queste posizioni si ascoltano, non è tanto se non sono tanti i rapporti di forza, tanto la capacità in qualche modo anche di essere disponibile un po' a cambiare idea, alla fine di una discussione. Senta, perché voi vi siete astenuti? Perché non condividiamo l'impianto di questa legge elettorale, riconoscendo che in qualche modo il referendum spingeva verso una riproporzionalizzazione del sistema. A nostro avviso si è ceduto di schianto. Vabbè, ne parliamo di questo. Mattarellum, poi si è andati verso un sistema che è un sistema sostanzialmente proporzionale. Ma bisogna poi trovare anche delle convergenze per farla la legge. Lei è emiliano, avete costruito un'opposizione interna coordinata oppure ognuno va per conto suo? Ma guardi, l'opposizione si pone nel rapporto con il governo. Dentro un partito non ci deve essere opposizione, ci devono essere posizioni diverse. Una discussione, insomma. Non devono essere preconcette. Naturalmente con Emiliano ci parliamo. Senta, ministro Orlando, sulla legge elettorale lo stavamo dicendo, tra PD, 5 Stelle e Berlusconi adesso si delinea un accordo oramai stretto. Perché non è un bene, secondo lei? Ma non è un bene. Ci vuole una legge. Che ci sia un accordo è sicuramente un bene. Il problema qual è? L'accordo, nel senso che questa è una legge che renderà più difficile la governabilità del paese. Ma dopo la sconfitta del referendum era difficile non andare verso qualche forma di proporzionale. Allora perché abbiamo insistito per 3 mesi sul se c'era questo rapporto di causa. E forse perché non si trovavano gli accordi. Ma dall'ipotesi potevamo cercarne qualcuno che salvasse qualche elemento di maggioritario. Io credo che quel cosiddetto Rosatellum, che a un certo punto sembrava avesse qualche consenso, poteva essere una strada da seguire. A un certo punto c'era stata la possibilità, si era aperta una finestra per avere un premio di maggioranza alla coalizione. Ma la sfiducia costruttiva non sarebbe l'elemento più qualificante? Assolutamente sì, ma hanno fatto una modifica di carattere costituzionale, non so se in questo momento qualcuno stava attento. Senta, ma dall'ipotesi un maggioritario a un proporzionale comunque corretto alla tedesca con lo sbarramento al 5%, qualche rappresentanza in più c'è e anche qualche ipotesi di governabilità? Io non credo che ci sarà la certezza di una governabilità, credo che rispetto ai sistemi precedenti ci sarà meno certezza. Dopodiché mi rendo anche conto che il referendum ha pesato, certamente di non vederlo. Dico solo che chi ha votato no poi la proposta non l'ha fatta. Chi ha votato no non aveva nessun interesse a fare la proposta. Ha interesse a far impazzire la maionese e in qualche modo ci è riuscito. Senta, Prodi proprio oggi dice che lo slogan di Renzi, la sera dell'elezione sapremo chi ha vinto, in realtà sarà difficilmente vero, così? Secondo me sarà impossibile sapere la sera delle elezioni chi ha vinto. Ritorniamo a un sistema che assomiglia molto a quello della prima Repubblica. Io non l'ho mai demonizzata la prima Repubblica, però quello slogan davvero è uno slogan che sarà inapplicabile. Certo, la velocità della politica necessaria oggi non è quella del passo della prima Repubblica, quindi in qualche modo questo potrebbe complicare anche i nostri rapporti in Europa. Ma possiamo trovare anche altre forme di compensazione. Se si crea più forti come in Germania, probabilmente si riesce anche a supplire a questi limiti. Vediamo. Io dico che di per sé la legge non va nella direzione della velocità. Questo è sicuro. Senta, Ministro Orlando, in ogni caso su questa legge si è consumato uno scontro violento nella maggioranza tra Renzi e Alfano. Alfano addirittura ha detto Renzi è un killer, un serial killer. Ma in politica si può dire qualunque cosa? No, direi di no. Secondo me capisco anche in qualche modo l'amarezza di Alfano, che ha rotto con Berlusconi, si è sentito poi tagliato fuori da un processo di riforma elettorale, però se Renzi è un serial killer, cosa che escluderei. Alfano. Lo era anche prima allora. No, Alfano è stato quantomeno allora il complice degli omicidi, soprattutto un complice di omicidi con 10 anni di governo continuativi. Più o meno. Io penso che in politica andrebbero pesate un po' di più le parole, soprattutto in momenti in cui purtroppo ci sono purtroppo in cui i killer girano davvero. Ecco, senta, ma a parte le questioni personali, secondo lei questo governo oramai non ha più senso? No, questo governo ha diverse cose ancora da fare. Io guardo alla giustizia, ci sono 3 grandi provvedimenti che sono ancora lì che aspettano di essere approvati. Dopodiché il governo ha sempre detto che voleva accompagnare l'approvazione di una legge elettorale. Certo. A quel punto si porrà il problema di che cosa fare. Di andare a votare. Senta, lo sbarramento al 5%, però almeno costringerà a semplificare il quadro con raggruppamenti sia al centro che a sinistra che siano almeno al 5%. Mi sembra una conquista storica. Non è storica, però rispetto alla prima Repubblica è storica. Visto che quello è il termine di paragone oramai. La Repubblica aveva un vantaggio, che in quel quadro c'era una coesione che era dovuta a un quadro internazionale. C'era la guerra fredda che aiutava, non so se i paragoni reggono. Quindi questo sbarramento non sarà uno strumento che renderà in qualche modo, pur con tutte le lentezze necessarie, un po' più governabile il paese, no? Non mi pare, ecco. No. Io mantengo questa forte perplessità, dopodiché ripeto, sono anche convinto che realisticamente nel momento in cui quasi tutte le forze politiche trovano un'intesa si va da quella parte, va in quella direzione. Ma secondo lei quando poi bisogna essere entusiasti di questa intesa, un altro paio di mani. Senta, ma secondo lei quando si voterà? Non lo so, questo tocca al capo dello Stato dirlo, bisognerebbe ricordarlo più spesso, perché mi sembra che troppi si cimentano in vaticini sulla data delle urne. Senta, ma la fretta di votare, secondo lei, è determinata più dalla paura della legge di stabilità che bisogna fare in autunno e che sarà probabilmente piuttosto dura, o solo dalla voglia di Renzi di tornare a Palazzo Chigi? O le due cose si sommano? Ma mi auguro che non sia né l'una né l'altra, io spero che sia, perché in qualche modo si vuol dare una rilegittimazione al Parlamento. Anche per andare in Europa con altra forza, con una forza diversa? Sì, questo naturalmente se avremo una coalizione che sostiene un governo, perché Dovessimo trovarci in una situazione in cui c'è meno governabilità di oggi. Allora si dovrebbe rivotare. Però noi non siamo la Spagna, non siamo la Spagna nel senso che abbiamo un debito pubblico molto, molto più alto, quindi io mi auguro che sia una scelta meditata che nasce appunto dall'esigenza di comunque provare a avere un Parlamento che sia nelle condizioni. Senta, Ministro Orlando, sento un pessimismo cosmico nelle sue parole, sbaglio? No, io non sono un pessimista né cosmico né storico, sono convinto del fatto che mentre c'è questo quadro bisogna comunque continuare a lavorare per costruire una coalizione di centrosinistra. Ecco, perché... ma lei parla sempre di questo centrosinistra, ma un eventuale governo con Berlusconi come va considerato? Beh, va considerato come un'ipotesi innaturale. Innaturale, quindi lei la contrasterebbe molto fortemente, eh? Io la riterrei un'ipotesi che non è adeguata a rispondere al populismo montante, perché rischia di essere una specie di arrocco dove l'establishment, quello che viene eletto come tale, si chiude in qualche modo. Io credo che vadano costruite le condizioni per riconquistare settori popolari che sono andati verso destra o sono andati al 5 Stelle, e non invece, diciamo così, costruire una sorta di sbarramento dal centro a questa marea populista. Senta, perché non ministro... credo che alla lunga reggerà. Ministro Orlando, però Bersani aveva fatto l'accordo con Berlusconi per il governo Letta, perché allora sì, adesso no? Ma non c'è nessuna demonizzazione delle intese tra forze politiche diverse, intanto quello fu uno stato di necessità. Vabbè, questo lo sarebbe anche vista la legge. Rischia di diventare un dato sistemico, non diciamo un accidente frutto di una legge. Dopodiché un conto è quello che si deve fare, un conto è quello che si vuol fare. Senta. Io penso che noi dobbiamo preferire la costruzione del centro-sinistra. Ecco, ma lei rappresenta appunto la sinistra di questo PD. Come la rappresenta? Io non rappresento la sinistra di questo PD, io vorrei rappresentare lo spirito originario del PD, che è di centro-sinistra e non una forza centrista. Ma le sue battaglie interne prevalenti quali saranno? Ma io penso che la battaglia prevalente in questo momento storico debba essere quella per l'eguaglianza sociale, perché penso che la crisi abbia aperto delle faglie nella società più grandi. Oggi il 25% della ricchezza del paese è nelle mani dell'1% della popolazione, e questo ha delle conseguenze anche sociali sull'assetto della democrazia. Senta, ma a proposito di raggruppamenti, il 1° luglio a Roma ci sarà l'iniziativa di Pisapia per la costruzione del cosiddetto campo progressista. Lei ci sarà? No, io sono nel Partito Democratico, lavoro per il Partito Democratico. Ma non va a ascoltare, a sentire cosa dicono? Ma ascolterò sicuramente cosa dicono. Quello che mi interessa però è dire due cose. Uno, io non credo che il PD possa vivere senza il centro-sinistra, però vorrei segnalare anche alle altre forze politiche che il centro-sinistra senza il PD non può andare dalla sua parte. Beh, lei oggi come definirebbe il suo rapporto con Renzi? Ha un rapporto dialettico e leale. Leale. Senta, lo ha trovato cambiato? Non ho trovato una metamorfosi sconvolgente. Non però, un grande cambiamento. Mi pare che ci sia, mi sembra che abbia detto delle cose, ora vediamo se... Ma è più disponibile all'ascolto oppure no, secondo lei? Non lo so, è troppo presto per dirlo, vedremo. Non ha avuto sensazioni. Senta, il mondo devo cambia. Devo dire che nel passaggio della legge elettorale in Parlamento sono state accolte alcune indicazioni, questo è stato un buon segnale, questo lo prendo come un fatto positivo. Senta, il mondo cambia, sperimenta nuovi percorsi politici con la Brexit, l'elezione di Trump, che piaccia o non piaccia, quella di Macron. Solo noi sembriamo tornare nel passato, perché lo stiamo dicendo, questa legge ci porta in qualche modo comunque nel passato. Ma perché? Ma siamo sicuri che Trump sia il futuro? No, è il presente, ma è un presente diverso da quello che c'è. Sto dicendo, ma siamo sicuri sono cambiate che le cose. Non assomiglia a cose che abbiamo già visto nel passato? Questa è la domanda che le faccio, nel senso che il populismo, il nazionalismo sono fenomeni che purtroppo il mondo ha già conosciuto, quindi il fatto che anche il nostro paese in qualche modo torni indietro, non so se sia davvero così un'anomalia. Senta, ma davvero lei vuole il referendum tra gli iscritti per fare, prima di fare l'eventuale accordo con Berlusconi? No, io vorrei che se ne discutesse, però noi prendiamo in giro i 5 Stelle che fanno click, però noi non facciamo neanche click. Beh, però un po' di discussione dentro i nostri circoli. Beh, però le primarie le avete fatte, un po' di discussione ci sono state. Nessuno ha sostenuto la tesi dell'accordo con Berlusconi, neanche quella del ritorno al proporzionale, mi pare. Senta, Renzi le ha vinte le primarie, lei le ha perse. Comunque è giusto che sia lui a dare la linea. Ah, certo che sì, però è anche giusto che ci possa essere una discussione o per 5 anni bisogna aspettare e guardare quello che succede. Senta, i posti nelle liste come li deciderete? Sarà una battaglia all'ultimo sangue? Mi auguro di no. Ma teme di sì? Che sia l'attenzione tanto più in un sistema proporzionale ad avere delle liste che siano plurali, inclusive, che siano in grado di parlare alla società italiana. Ha paura? Si prepara a quella battaglia? Ma guardi, non sto facendo nessun particolare accorgimento. Credo che se ne discuterà, penso che alla fine... tanto più in un sistema come questo ci si interessa a trovare l'accordo più largo possibile. Senta, ministro, il cortocircuito tra la magistratura e la politica è ancora irrisolto, la vicenda della Consip nella prova. C'è guerra tra procure, violazione del segreto istruttorio, verbali non agli atti che finiscono sui giornali. È un po' un caos. Senta cosa mi ha detto il procuratore di Catanzaro Gratteri e la risposta del vicepresidente del CSM Legnini. Quando c'è una violazione, quando c'è una fuga di notizie, quasi sempre la fuga di notizie esce o dalla procura o dalla polizia giudiziaria. Certo. E in genere quando la polizia giudiziaria fa la fuga di notizie c'è quantomeno una sorta di silenzio assenso da parte della procura. Se no le notizie non escono fuori. Un ufficiale di PG non mette in gioco la carriera. Cioè, non quindi è il rapporto col magistrato è determinante. È fondamentale ai fini della sua carriera. Ha ragione Gratteri? Sì, ha ragione Gratteri. Quindi qualcuno ha dato l'ok? Ha ragione Gratteri, che è un grande magistrato. Non sempre sono d'accordo con lui, ma in questo caso lo sono. Ha ragione Gratteri, ministro? Con qualche possibilità ulteriore, ma tendenzialmente ha ragione, nel senso che ci sono anche altre figure che... Vabbè, d'accordo, ma diciamo la sostanza è precisa. Di quello che sì, ha detto Gratteri. Non sempre sono così convinto che i sostituti siano in grado di vigilare sempre su quello che fa la polizia giudiziaria. Cioè possono farla senza la vigilanza, dice, da soli? No, dico che a volte possono esserci dei passaggi nei quali non sempre il magistrato è coinvolto, però insomma tendenzialmente quello che dice Gratteri è, mi pare che... Ma è questo nodo Consip, allora come si risolve? E adesso ci sono delle inchieste aperte. Ma ha un'opinione lei rispetto alla lotta fra le procure? No, io non parlerei di lotta tra le procure, parlerei di confusione all'interno di alcune procure, di episodi inquietanti all'interno di alcune procure. Ma lei ha preso, prende qualche iniziativa oppure sta a guardare? Io mi ha dato... Fuori ho chiesto al procuratore generale di fare un rapporto sul funzionamento della polizia giudiziaria a Napoli, perché come le sa io ho poteri ispettivi sì, sui magistrati, certo. non sulla polizia giudiziaria. Io le iniziative di verifica di controllo che dovevo fare le ho assunte. E poi però qui c'è qualcosa in più, perché probabilmente c'è una violazione di carattere penale sulla quale credo sia aperto un fascicolo, comunque penso ci sia un'inchiesta. C'è un'inchiesta, no? C'è un'inchiesta. l'inchiesta, si tratta di un reato, quindi si tratta più di una questione di un profilo disciplinare. Senta, un'ultimissima cosa, ministro Orlando, la ringrazio. Nel prossimo governo lei vorrebbe provare a avere l'occasione di completare la riforma della giustizia? No, io vorrei in generale che la riforma della giustizia si completasse. Quando penso con preoccupazione a intese innaturali, penso alla fatica che abbiamo fatto con un governo che tutto sommato aveva una certa possibilità. Va bene, grazie. Pensiamo a dover fare una riforma di questo genere con forze politiche che hanno programmi molto distanti. Molto distanti, sarà difficile. Grazie ministro Orlando. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Lancio della storia, ricordo che dopo il giornale radio ci sarà il racconto della vita di Bob Kennedy. Pubblicità.